Non ragionate solo in termini di organi interni. Pensate a qualcosa che ricopre l'intero corpo, anche negli esseri umani. Non sempre viene in mente quando si parla di organo, ma è fondamentale per regolare la temperatura.